mia cintura, che mi dite che vuol parlarmi? Oh, bastardi, questa parola! Alla parola! Che vuol parlare? E la da te, bastardo! Dove mi nascondo? Oh,